Hadith numero 5. Dalla madre dei credenti a Aisha, che Allah si compiaccia di lei, disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, colui che dice in questo nostro affare, l'Islam, ciò che a esso non appartiene è eretico. Riferito da Bukhari e da Muslim. In un'altra versione di Muslim, colui che compie un'azione estranea al nostro ordinamento, l'Islam, è eretico.